One, two, three, four. Everybody's talking about fag and the tag and the swag and the mag and the swag and the tag and the this and the that and the this and the that. All we are saying is give bees a chance. Don't pay. All we are saying is give bees a chance. Yeah. Come on. Everybody talk about this. The sinners, the baddies, and the baddies. Bishops and bishops and rabbis and popeyes. Grazie a John Lennon, un saluto anche alla ditta Cassiano che lavora con noi in sottofondo, quindi buona giornata e buon proseguimento, buon lavoro anche a te. Poi Minty che mi scrive da circa 3 minuti, sono l'orgogliosa proprietaria di un casù, la lezione di pane, burro e rock and roll non andrà persa. Caro Marco, ti ho mandato pochi sms, ma sei forse il DJ che ho ascoltato di più. Passi la musica che io preferisco durante la mattinata e anche quella che non avrei mai ascoltato nell'appuntamento serale, quindi di sicuro ti riferisci a Arden Daily. Un enorme grazie, grazie a te, naturalmente Minty, e spero di potertelo dire di persona il 31, ci conto e ti aspetto. Everybody.

The Stray Cats, 13 minuti dal mezzodì con la formazione degli Stray Cats appunto e con le note di Runaway Boys. Vado a salutare Claudio che mi dice se conosco la versione di Bob Seger. Sì, la conosco, in effetti hai ragione, bella. Un salutone anche a Fefo, a Lore da Firenze che dice non ti ho mai scritto prima, ma sappi che con la chiusura decade praticamente, decala radio il mio taxi che sarà molto vuoto. Lore da Firenze, ti aspetto il primo alla Flog e ci saremo tutti quanti. Franco da Milano che dice ma smetti la Gravelli, lo abbiamo capito che il 31 sparisce Rock FM per lasciare posto ad un altro progetto editoriale, o no? Che sparisca Rock FM è sicuro, che ci sia un altro progetto editoriale io, tantomeno gli altri, non lo sappiamo, e di sicuro se mai ci sarà non ne faremo parte. Saluto anche il Gipo patente 2022. Together degli Stones, ultimi due brani e poi vi lascio a Claudia che è già arrivata e si sta già pappando varie fette di torte portate dai gentilissimi ascoltatori che ormai ci stanno nutrendo a dolci mattina dopo mattina. Arriveremo al 31 ancor più panciuti di quanto lo siamo già. Ozzy Osbourne, questa è Over the Mountain. Over the Mountain. Arriviamo al termine allora di questo nostro appuntamento per questo venerdì 23 di maggio. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito sino ad ora. Vi lascio insieme a Claudia. Ci ritroveremo la prossima settimana, sicuramente, a partire da lunedì 26. Ciao! Siamo architetti ricchi di vele e vecchie dive del mare. Abbiamo ville, abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te. Puoi controllare i nostri alibi, siamo eleganti e sereni. Siamo avvocati rispettabili e ci inchiniamo al denaro come te. Ci annoiamo, abbiamo mogli e amanti, abbiamo tanti amici. A guardarli bene tutti e fermi, che siamo costretti a eliminare la logica spietata del profitto. Chissà cosa ci fa fine l'impero culturale occidentale. Meno male che qualcuno che qualcosa ci punisce. Arriva un investigatore, ci deduce l'anima, la nostra cognizione del dolore illumina. Siamo scrittori in crisi a Beverly Hills e siamo John Cassavetes. Siamo i dentisti di Los Angeles ed adoriamo il potere come te. Prepariamo l'aragosta per chi viene a colazione. Prepariamo piani misteriosi appena ne cogliamo l'occasione. La logica spietata del profitto, chissà cosa ci fa fine. Questo programma è stato offerto dalla mitica caramella Zigulì. Rock FM Spot. Live presenta Queenstrike in concerto. I leggendari Queenstrike tornano in Italia con il loro concept Operation Mindcrime al gran completo. Tutti gli attori, gli schermi e la scenografia per uno show da non perdere. Sabato 7 giugno, Milano, Alcatraz, via Valtellina 21. Info line 055 55 20 575. www.liveinitaly.com in collaborazione con Rock FM. Starla, il primo album di una rock band rivelazione. Starla, tensione, rabbia, rock alternativo. Sei un fiume in piena che mi salva. In CD, in digitale ed in tour. Starla, l'album di debutto su etichetta Orange Park Records. Rock FM. Questo programma è offerto dalla mitica caramella.